Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Il presidente egiziano deposto Mohamed Morsi sta bene ed ha accesso alle informazioni che gli servono, è quanto ha detto l'alto rappresentante UE per la politica estera Catherine Ashton, che lo ha incontrato per circa 2 ore questa notte nel luogo segreto in cui è tenuto agli arresti dalle autorità militari egiziane. Migliora il clima di fiducia di imprese e famiglie dell'area euro. A luglio l'indicatore elaborato dalla Commissione europea è risalito a livelli più elevati da oltre un anno. Il punto di Valeria De Rosa. Fiducia in crescita in Europa e nella zona euro, rispettivamente 2,4 e 1,2 punti in più a luglio rispetto al mese precedente. E sebbene da Bruxelles i toni arrivino smorzati perché la crescita è inferiore alle attese e perché l'indice ESI, Economic Sentiment Indicator, resta debole, poco sopra i 90 punti, c'è comunque il fatto che si tratta del terzo rialzo consecutivo. E in un anno che continua a registrare una crisi profonda non è da poco, perché molto lo fanno i dati reali, ma sono anche le speranze e le aspettative a muovere i mercati. Il recupero è stato determinato soprattutto da una maggiore fiducia nelle prospettive dell'economia registrata tra i consumatori e i manager nei settori. Abbiamo avuto un problema tecnico, ce ne scusiamo, andiamo avanti con le altre notizie. La Commissione Ambiente e Salute del Parlamento Europeo propone di incentivare il passaggio a quelli di nuova generazione. Si deciderà in aula a settembre. Agricoltori in fibrillazione per la piega presa in Parlamento dalla discussione sui biocarburanti, da sempre sotto inchiesta per l'impatto sulla biodiversità e le produzioni alimentari, ora osservati speciali anche per le emissioni di CO2. In un tentativo di mediazione tra le aspirazioni di severità della Commissione e quelle opposte dei coltivatori, la Commissione Ambiente del Parlamento ha proposto un tetto del 5,5% all'utilizzo dei biocarburanti di prima generazione, quelli derivati dalle produzioni alimentari, sull'obiettivo del 10% di energie rinnovabili per i trasporti entro il 2020 stabilito dalla stessa Unione. In Europa stiamo già producendo. Produciamo già oltre il 5%, si lamenta Arnaud Petit, direttore di Copacogeca, organizzazione agricola europea. È un limite inaccettabile quello. La relatrice, Corinne Lepage, sa bene che l'industria ha investito nel settore, ma ritiene che bisogna trovare un equilibrio guardando al futuro. E la necessità di ridurre nos emissioni di gas a effetto serra tutto in investimento. Per ridurre gli effetti dei gas serra e continuare a investire nei biocombustibili di seconda generazione, derivati da alghe e rifiuti, che, precisa la proposta approvata, dovranno rappresentare non meno del 2% del consumo entro il 2020. Non a prezzo, si sottolinea però, di avere un impatto negativo sulla biodiversità o destabilizzare la politica europea in materia di rifiuti e foreste. E a maggior controllo si introduce il fattore ILUC per conteggiare le emissioni indirette dovute ad esempio a disboscamento. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Sono Federico Taddia e vi segnalo la mostra La cittadinanza europea dall'antichità a oggi, che ripercorre in 20 pannelli l'evoluzione del concetto di cittadinanza dalla Grecia classica ai giorni nostri. Dopo le tappe di Venezia, Torino e Campobasso, in agosto sarà a Rimini e poi Monza, Lecce, Reggio Emilia e Cuneo. Sempre abbinata alla mostra fotografica L'Italia in Europa, l'Europa in Italia, storia dell'integrazione europea in 250 scatti. Le esposizioni rientrano nelle attività organizzate congiuntamente da Dipartimento Politiche Europee, Commissione e Parlamento Europeo in occasione dell'Anno Europeo dei Cittadini e grazie al loro carattere itinerante possono essere ospitate da scuole, comuni e università. Per informazioni www.europarl.it. E come sempre tutti i dettagli su radio24.it. Europa 24 torna domani intorno alle 13.15. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.